ora ad assistiti. Mi ti fidi andasci su tra stanno non fatti. Le tue mie strade sono arruciti ma se tu ti promagi tu ogni fumo. Le tue mie strade sono arruciti ma se tu ti promagi tu ogni fumo. Ogni fumo. Thank you. Srećni ti, prava Boga dva Thank you. nadie de nosotros ni el amor. Pasa la lindo, la chiquita y grata, usa luz de lechera, la suya va a morir, te estoy en esto no vivir, o no estoy yo morir. Usa luz de lechera, la suya va a morir, cada semana neci di distobo. Lavorami, sei di strane, ne nada e se giuva nessuna, mosse si va che non ci va a me. Thank you. Dar tot ești, dar tu nu ești, și ce cam nu zacaia ne. Așa tot ești, dar tu nu ești, și ce cam nu zacaia ne. O perosti mie, o merane, o venopi ultra moci. O perosti mie, peroste dane, poti dani me ce doci. O perosti mie, peroste dane, poti dani me ce doci. O perosti mie, peroste dane, poti dani me ce doci. Daš poradiš na oko.